essere a voi in ricerca. Egli ne vengo. Nobil verso giusto, non si nieghi l'ingresso. A voi lo scorto adesso. Restate, e da qui innante non si facile aprite le soglie altrui, che spesso ove fama calverni un'intatta bellezza è peregrina, vanno a stuolo gli amanti alla rapina. Nasconderò le gemme. Sono intenti sol questi a depredar gli affetti. Cara semplicità, quanto malletti!